All'aria, l'afflitta dolorosa de Maria, oi de Maria, l'afflitta dolorosa de Maria. Miezzana chiorma de cavalleria, cavalleria. Miezzana chiorma de cavalleria. Currite tutte qua, Scitabede Gesù, caie malate, Scitabede Gesù, caie malate. Sopra la croce lui, pietese fate, Lucuscinelle de spine granate, Lucuscinelle de spine granate, alla sinistra c'è l'amata lune, cocchielu sangue ontana, naiarra fine, cocchielu sangue ontana, naiarra fine, salla pigliata na, botta de lancia, alla parte sinistra del cuore, oi del cuore, alla parte sinistra del cuore, sa dale vai e lu, stendar de russe, la trumme non se lente de sonaie, oi de sonaie, la trumme non se lente de sonaie.